Capitolo quinto, Mishnah 6. Abbiamo già spiegato che i Kohanim erano suddivisi in 24 gruppi che si chiamano Mishmarot, guardie, e ogni settimana dell'anno si cambiava il gruppo di Kohanim che prestavano culto e facevano il servizio nel Beit HaMikdash. Però esiste una regola, e come vedremo anche nella prossima Mishnah un po' più approfonditamente, la regola della Torah è, c'è scritto che nei momenti dei regalim, cioè le tre feste di Pesach, Shavuot e Sukkot, tutti i Kohanim, tutte le Mishmarot, hanno il diritto di venire al Beit HaMikdash e partecipare alla Avodah, che avviene per i regalim. E quindi non è più limitato a quel unico gruppo di quella settimana. E ora vediamo come funziona questa dinamica. Innanzitutto, per ciò che riguarda le Korbanot di Sukkot, visto che stiamo parlando delle funzioni di Sukkot all'interno del Beit HaMikdash. Allora, durante Sukkot noi abbiamo 70 Korbanot specifiche, oltre altre che adesso vedremo, che funzionano secondo lo schema che il primo giorno di Sukkot vengono portate 13 Korbanot di buoi, il secondo giorno 12, il terzo giorno 10, fino ad arrivare a 70, ok? Oltre a questi 70 complessivi, abbiamo anche ogni giorno due montoni e un capretto, quindi altri tre ogni giorno, ok? E la domanda è, come si suddividono due montoni, un capretto e 14 pecore ogni giorno, ok? Come suddividono questa cosa? Cioè, in altre parole, quali sono le Mishmarot che faranno la funzione? Se tutte le Mishmarot sono presenti nel Beit HaMikdash durante Sukkot, perché è un regel, è una delle feste di pellegrinaggio, allora bisogna suddividere la funzione, la Avodah delle Korbanot, tra tutte le Mishmarot. E lo schema di come viene suddivisa la Avodah sarà spiegato in questa Mishnah. Vediamo la Mishnah. Yom Tov Arishon Shel Chag. Il primo giorno della festa di Sukkot, che si chiama, come abbiamo già visto per eccellenza, Chag, Hayusham Shelosha Asar Parim, c'erano da portare 13 buoi, come abbiamo detto, i primi dei 70, e poi Eilim Shenaim, due montoni, Vesair Echad e un capretto. E di questi, quindi 13 più 2 più 3 sono 16, ok? Quindi ognuno di questi alle prime 16 Mishmarot. Rimangono 14 Mishmarot, giusto? Nishtairu sham arba'a asar kevasim. Scusa, 8 Mishmarot, lishmone Mishmarot. Rimangono le 14 pecore che abbiamo detto, e queste 14 vengono suddivise per le ultime 8 Mishmarot. In che maniera vengono suddivise le Mishmarot? Vayom Arishon, il primo giorno che ci sono 14 e 8 Mishmarot, allora Shisham Makrivin Shnaim Shnaim, 6 delle 8 Mishmarot rimaste fanno 2 pecore ciascuno, Veashear, e le altre 2 Mishmarot rimaste fanno una ciascuna, così arrivano a 14, Echad Echad. Quando arriviamo al secondo giorno di Sukkot, Basheni, dove ci sono 12 buoi, non più 13, perché vanno appunto diminuendosi come abbiamo visto, quindi rimarranno 14 pecore a 9 Mishmarot, non più a 8 Mishmarot come ieri. Di conseguenza cosa facciamo? Hamisha, 5 delle 9 Mishmarot rimaste, Makrivim Shnaim Shnaim, portano ognuna 2 e sono quindi 10, Veashear, e le altre 4 fanno ognuna una, Echad Echad. Giusto? Sì. Bashelishi, il terzo giorno di Sukkot, che abbiamo 11 buoi, allora abbiamo 14 pecore per 10 Mishmarot. Quindi, Arba a Makrivin Shnaim Shnaim. 4 delle 10 Mishmarot rimaste fanno ognuna 2 pecore. e le altre sei mishmarot, Beashear, Echad, Echad, una a una. Barevi, il quarto giorno di Sukkot, che nel quale ci sono 10 buoi, siamo arrivati a 10, quindi le 14 pecore rimaste vanno per 11 mishmarot, Shloshama krivim shnaim shnaim, di cui 3 mishmarot fanno 2 ciascuna, Beashear, e tutte le altre mishmarot, quante sono? 8 rimaste, fanno ognuna una. Il quinto giorno della festa, Bachamishi, che nel quale si portano 9 buoi, Tisha Parim, allora in questo giorno quelle pecore rimaste per 12 mishmarot, allora shnaim akrivim shnaim shnaim, le prime due delle 12 mishmarot hanno ognuna 2 pecore, e le altre 10 mishmarot rimaste fanno vashear echad echad, ognuna una. Bashishi, il sesto penultimo giorno di Sukkot, in cui si portano 8 buoi, quindi rimangono le 14 pecore per 13 mishmarot, echad, solo la prima delle 13 delle mishmarot prende 2, makriv shnaim, porta 2 pecore, vashear, e le altre 12, ognuna una, echad echad. Bashevi, quando arriviamo a Hoshana Rabbah, l'ultimo giorno, settimo giorno di Sukkot, in cui ci sono 24 korbanot di Musaf in tutto, perché 7 buoi, non più 8 come ieri, ma 7, 2 montoni, un capretto e le stesse 14 pecore, allora sono esattamente 24 korbanot, quindi kulan shavin, una per ogni mishmar, un korban per ogni mishmar, tutti sono uguali. Quando arriviamo al giorno successivo, che è Bashemini, il giorno di Shemini Atzeret, lo schema delle korbanot è diverso, perché nel Shemini Atzeret c'è solo un bue, un montone, un capretto e 7 pecore, allora in questo caso Chazru la Pais. Qui torniamo al Pais. Vi ricordate il Pais? Abbiamo studiato nel trattato di Yomà. Il Pais è il tiro a sorte, la sorte. Mi fa la Pais. È la sorte. E ogni mishmar è rappresentato nel Pais. Quelli che vincono fanno queste korbanot. Quelli che non vincono non lo fanno. Come si farebbe negli altri regalim, Keba regalim. Il fatto di dividerlo, suddividerlo tra tutte le mishmarot è possibile solo a Sukkot, quando ci sono così tante korbanot. Ma quando arriviamo a Shemini Atzeret, che le korbanot diminuiscono e diventano più simili a come sarà a Pesach e a Shavuot, allora lì funziona con il Pais. Sì? Il numero di korbanot. Sì. È stabilito dalla Torah, oppure è stabilito, sì, è esplicito nella Torah. Sì, sì, sì, è esplicito nella Torah, e noi lo leggiamo nel Musaf dei Moadim e nel Sefer di Maftir dei Moadim. Quello è sempre quello che si legge nel Sefer. Ora, Chazru la Pais Keba Regalim, come abbiamo spiegato nel trattato di Yomà, e potete sentire la registrazione del secondo capitolo di Yomà all'inizio, di come funzionava il Pais. Amru, dissero, dicevano nel Beit HaMikdash, annunciavano ai Kohanim, mi shehikriv parim hayom, il mishmar che ha avuto oggi la possibilità, per esempio, primo giorno di Sukkot, il secondo mishmar ha portato tot numero di buoi, ok? Lo yakriv le machar, non potrà anche portare parim domani, va alla fine della fila, e la chosrin chalila, si fa il giro, ok? Quelli che hanno fatto oggi i parim faranno domani i kvasim, le pecore, e così via, faranno tutto il giro. Per esempio, il primo giorno, le prime 13 mishmarot fanno i 13 buoi, ognuno un bue, vero? Quattordicesimo e quindicesimo mishmar fanno i 2 montoni, il sedicesimo mishmar fa il capretto, e le mishmarot da 17 a 24 fanno i 14 le 14 pecore, ok? Il secondo giorno, i mishmarot dal 14 al 24 fanno i 12 parim, i buoi, e così andiamo scalando. Fanno tutti shochet questi qua. E i konim? Sì. Probabilmente si presume che tutti potevano fare shechita, anche se in generale c'è una regola, che è una delle cose che è possibile, che non serve necessariamente essere un kohen per fare nel Beit HaMikdash, è la shechita. Anche un ebreo normale può fare la shechita di un korban. Ah, certo. Potrebbe. Sì. Se sapesse bene tutte le... Se sa fare Shechita, certo. Allora, questa è matematica. Mishnah Zain, settima Mishnah del quinto capitolo. E andiamo verso l'ottava Mishnah, che sarà l'ultima del capitolo, e faremo il Siyum, la conclusione ufficiale. Settima Mishnah dice così: Bishlosha Perakim Bashanah. Qui parliamo più in generale di come funzionano le Mishmarot nel momento del Regel, come alludevo prima. Tre momenti l'anno, e cioè i tre regalim, chiaramente. Hayu kol ha-mishmarot shavin, tutte le mishmarot, tutti i 24 gruppi di Kohanim, erano considerati uguali per ciò che riguarda il ricevere certe parti delle korbanot o altre cose del Beit HaMikdash che venivano donate ai Kohanim. Durante la settimana normale, il normale andamento dell'anno, allora erano esclusivamente di proprietà di quel mishmar, come vedremo, o anche del mishmar che entrava e quello che usciva, quando parliamo del pane che veniva cambiato ogni venerdì, ora vedremo. Però durante i regalim diventano tutti uguali per ciò che riguarda prendere una parte di ciò che viene dato ai Kohanim di quella settimana. Ora vediamo. La prima cosa è Be'emurei ha-regalim. Le korbanot, emurei ha-regalim significa le parti delle korbanot che vengono consumate dai Kohanim, quelle che sono relative ai regalim, alle tre festività, vanno divise tra tutti i Kohanim, non solamente il mishmar di quella settimana. Ok? Questa è la prima cosa. Questo riguarda, chiarisco, le korbanot che esistono perché è un regel, sì, ok? Legate al regel, allora vanno suddivise a tutti i Kohanim. Ubechiluk lechem apanim, quello che alludevo già prima, e cioè la distribuzione del pane, il pane che si trova, i 12 pani che venivano messi all'interno dell'Echal, nel Kodesh, per tutta la settimana, ogni venerdì, e rimanevano miracolosamente fresche, e poi venivano tolte e rimesse altre 12 pani. Questi pani venivano suddivisi e distribuiti ai Kohanim di quella settimana. Ma quando è il Regel, ok? Quando è il Regel, allora questo pane veniva suddiviso, Shabbat veniva durante il Regel, il pane veniva suddiviso a tutti i Kohanim presenti, non solamente a quelli di quel Mishmar. E la terza cosa è Ba'atzeret. Atzeret è la festa di Shavuot. Se Shavuot venisse di Shabbat, non solo c'è il pane che viene cambiato ogni settimana, ma ci sono anche Shtei Halechem. Shtei Halechem è un pane particolare che viene portato a Shavuot, due pani che devono essere Chametz, cioè partiamo da Pesach, dove tutto deve essere Halil, deve essere azimo, sì. Matzah. E arrivando al 50° giorno a Shavuot si fanno due pani chametz, che devono essere per forza chametz. Allora ci sono non solo i 12 pani che sono matzah, tutto l'anno i pani del lechem apanim sono matzah, non sono lievitati. Non mai ok? E invece il pane di Shavuot, i due pani sono chametz. Allora ci sono 14 pani, 12 matzah e 2 chametz. Questi vengono tutti distribuiti a tutti i Kohanim che sono presenti, se Shavuot dovesse essere di Shabbat, perché c'è scritto Lechol benei Aharon tiyeh ishke achiv, tutti devono partecipare nella uguale maniera in questa distribuzione. Bastava sto pane per tutti, erano tanti Kohanim. 12. Poteva non essere 12. Anche una briciola, non è che dovevano... Simbolicamente visto, dovevano sfamare. Sì, non ci dovevano sfamare, però doveva essere suddiviso a tutti. Okay. E Omrim lo... E si diceva a ogni Kohen che riceveva questi due pani, gli si diceva, Heilach Matzah, prendi Matzah, cioè un pezzo del pane che veniva dall'interno, che tutto l'anno è Matzah, come dicevamo. Heilach Hametz, prendi un pezzo di due pani di Shavuot che sono Hametz. Perché? Perché non si poteva dare o Matzah o Hametz? Perché tutti e due? Perché di nuovo, ognuno doveva ricevere una parte di entrambe le modalità, diciamo, di entrambi i tipi di pane. Quindi bisognava specificare, ti do sia matzah e ti do anche chametz, così ogni coin doveva ricevere. Nonostante che abbiamo detto che durante le settimane o i momenti del Moed tutte le Mishmarot sono considerate uguali, ci sono delle cose che rimangono anche durante il Regel esclusive per il Mishmar di quella settimana. Quali sono queste cose? La Mishnah ce lo insegna. Mishmar shezmano kavua. Se, cioè il Mishmar che ha il suo tempo predisposto per la sua avodà in quella settimana in cui viene il Regel, ha anche delle cose esclusive, e cioè hu makriv temidin, è solo quel mishmar che fa tutta la funzione dei korban tamid, delle korbanot quotidiane, perché le korbanot quotidiane ci sarebbero comunque, non sono a causa del Regel che si fanno le korbanot quotidiane. Di conseguenza rimangono esclusive di quella settimana che li avrebbe comunque fatti anche se non fosse Regel. Giusto? Sì. Ok. Non solo, anche nedarim u nedavot, anche doni e voti, korbanot portati per dono o per voto che qualcuno ha detto durante l'anno, io faccio un voto che se è, porto un korban, oppure questo qui mi ha fatto piacere, allora in suo onore vado a portare korban. Questo si chiama neder o nedavah. Tutte queste korbanot che persone potrebbero aver promesso di fare nel corso dell'anno, normalmente durante i regalim vengono saldate queste promesse, no? Perché la persona non è che va da Tzvat a Gerusalemme per portare la nedavà. Quando è Sukkot deve andare comunque, allora va e porta anche la nedavà. Queste korbanot chi le faceva? Qualsiasi mishmar che è presente nel Regel o il mishmar di quella settimana? La Mishnah dice il mishmar di quella settimana. E non tutte le non hanno il diritto tutti gli altri, solo quelli che sono di quella settimana. Sì. Il neder che è tipo un voto. Il neder è il voto, bravissimo. Esattamente. Ushear korbanot zibur e anche le altre korbanot pubbliche che ci sarebbero comunque non per il regel, per esempio il musaf di Shabbat. Il musaf di Shabbat non è che c'è perché c'è il regel, c'è perché è Shabbat, quindi spetta a quel mishmar di quella settimana e non a tutte le mishmarot. Non è un korban del regel, è un korban della settimana. Ok? E altri esempi che sono spiegati nella Gemara di Korbanot Zibur, un makriv et hakol. Tutte le korbanot che non sono legate al regel vengono fatte e messe in atto dal mishmar di quella settimana. Praticamente non viene mai nessuna esclusa qua. Fanno sempre tutte e basta. Quelle del Regel non fanno. Fanno le altre Mishmarot. No, dico quelle che si fanno. Quelle che ci sarebbero tutte. Comunque. Fanno sempre tutte. Sì. A prescindere. Sì. Ora, Yom Tov Hasamuch la Shabbat. Quando viene un Moed. Ecco. Vicino a Shabbat. Quindi non Shabbat all'interno del Moed. Prima abbiamo parlato del pane che viene distribuito. Abbiamo parlato del Shabbat che viene durante Moed. Allora il pane viene distribuito a tutti, che questo è diverso dalle korbanot, perché nelle korbanot abbiamo detto se è una cosa che c'è comunque, come il tamid, viene fatto è esclusivo per il gruppo di quella settimana. Il pane c'è sempre, tutte le settimane. Nonostante ciò, se lo Shabbat viene durante il regel, il pane viene distribuito a tutti e non rimane esclusivo. Ma se lo Shabbat dovesse essere vicino al regel, significa un giorno prima o un giorno dopo, come la Mishnah dice, ben milefanea, ben milacharea, cioè se l'ultimo giorno di Moed è venerdì, quindi poi viene Shabbat, oppure se è il primo giorno di Moed è domenica e quindi prima c'è Shabbat, allora hayu kol ha-mishmarot shavin bechilum chiluk lechem apanim. Anche in questo caso il lechem apanim, il pane, viene distribuito a tutte le mishmarot, come quando lo Shabbat viene durante il regel, ok? È chiaro che le mishmarot devono essere presenti in entrambi questi casi, perché devono essere pronti per il Moed. O è appena finito il Moed e entra Shabbat, non possono andare a casa. Oppure il Moed entra sabato sera, devono già essere lì da venerdì. Quindi in questi casi che i Kohanim di tutte le mishmarot sono lì, la Mishnah dice, viene distribuito il lechem, apanim e il pane a tutte quante le mishmarot. Shabbat, sì. Ogni guardia da quanti Kohanim era composta? Dipende quanti Kohanim c'erano nella popolazione. Ah, per cui quindi quanti Kohanim c'erano venivano suddivisi in 24. Prima erano 12, okay. Prima erano ancora di meno, se non sbaglio 6. poi sono diventati 24, tutti i coanim vengono suddivisi in questo... Tutti i coanim venivano divisi per 24, sì, sì, sì, per famiglie, poi erano, c'era tutta una gerarchia, eh? Biyom Shabbat, Biyom Shabbat Ya'archenu. Insomma, è come quando fai il calcolo delle, delle candeline di Hanukkah. Primo giorno te, quello lì, è più o meno è un calcolo. Allora, c'è un legame tra i buoi di cui... Sì, ma non è una cosa facile da calcolare. No, soprattutto... Quando dici, quanti sono in totale? Continui, perché ogni occasione ha decine. Si chiama matematica... Ma anche quella lì è matematica. Non sono sicuro. Allora, il legame tra Sukkot e la Mishnah che abbiamo studiato prima, e cioè i buoi che vengono, vanno diminuendosi, 13, 12 fino ad arrivare a 7, cosa c'entra con Hanukkah? Secondo Bet Shammai c'è scritto che i lumi di Hanukkah per Mehadrin, Mina Mehadrin, per fare la mitzvah, l'abbellimento dell'abbellimento, come abbiamo spiegato l'altro giorno, non è nello schema come Bet Hillel che si fa il primo giorno 1, il secondo 2, il terzo 3, bensì il contrario. Secondo Bet Shammai si fa il primo giorno 8, il secondo giorno 7 e così via. E i maestri spiegano perché Bet Shammai tiene questa opinione, sostiene così, perché simile a Parei HaChag, simile ai Parim, ai buoi di Sukkot, che vanno, come dice la Torah, 13-12 scalati verso il basso. E c'è anche un legame storico tra Hanukkah e Sukkot, in quanto secondo diverse fonti, il fatto che Hanukkah era 8 giorni non è solamente la luce della menorah, ma anche perché quell'anno nel Bet HaMikdash non era possibile fare Sukkot, visto la profanazione del Bet HaMikdash a mano dei greco-siriani, e allora hanno in qualche maniera ripreso ciò che si sarebbe fatto a Sukkot, hanno ripreso in questi 8 giorni, 7 giorni e 8 giorno. Quindi c'è un legame in questo senso tra Hanukkah e Sukkot. L'ottavo giorno di Sukkot è... Otto giorni di Sukkot, no? Sette Shemini Atzeret, otto giorni di Hanukkah. Ecco, il numero in collegamento agli otto di Hanukkah. Senti, faccio una domanda. Che non potevano fare Sukkot quell'anno nel Bet HaMikdash. Adesso arriviamo all'ultima Mishnah. Prego, qual è la domanda? Finisce la Mishnah. Finisce la Mishnah. No, devo iniziarla l'ultima. Volevo sapere. Sì. Quando arrivano tutti questi, come si chiama, tutti i buoi, questi abbacchi, questi cosi... No, che devono suddividere. C'era un modo in cui suddividere? Devono pesare per avere ognuno una quantità uguale? Come suddividevano quando arriva tutti qua le bestie? In che maniera suddividevano? Sì. Chi prendeva il filetto e chi prendeva la... No, ma non è che prendeva il filetto. Deve essere una cosa equa, più o meno. Più o meno, più o meno. E a però occhio no. Facevano sì. O c'erano delle bilance? No, no, non credo che c'erano delle bilance. O darsi che sbaglio, ma non credo. Era più a occhio. Non per caso, cioè, un ufficio del Bazzetto. Non basta. Assolutamente sì. No, ha detto non vanno, non bastano. C'erano diversi uffici. Sì, vabbè, ma... diversi aspetti della manutenzione, del tesoro, di tutti gli aspetti. Aveva un ufficio. Era giusto da Guanin, non necessariamente, però alcuni uffici sì. Dipende quali uffici, eh? Questo è un mattatoio diventato lì. Sanedrin? Io immagino. Sì, ma Sanedrin non gestiva in prima persona. Erano sotto l'autorità del Sanedrin. Però c'erano tanti uffici diversi. Sì, sotto l'ufficio del Sanedrin c'erano vari uffici. E alcuni di questi uffici erano proprio all'interno della struttura del Bet HaMikdash. Sì. Allora, ottava e ultima Mishnah del capitolo quinto e dell'intero trattato di Sukkah. Yay. Siete pronti per il Siyum? Sì. Ok. Chaliot yom echad leafsik bentayim. Se cadesse un giorno, se capitasse un giorno di interruzione tra la fine del Moed e l'inizio dello Shabbat. Sì, oppure il contrario, oppure se Yom Tov e se Moed viene di lunedì, no? E prima c'è Shabbat. Quindi i Kohanim potrebbero arrivare domenica, non devono per forza essere lì da Shabbat, ma se avessero voluto venire da venerdì, ok? Oppure il contrario, se il Moed finisce giovedì, poi c'è venerdì e poi c'è Shabbat, potrebbero andare a casa venerdì, però se volessero rimanere fino a domenica, allora in quel caso si dà anche in quel caso qualche tipo di rispetto al Mishmar che fosse rimasto se volesse, cioè per, sempre per quanto riguarda il pane. Mishmar shezmano kavua, il Mishmar che ha il suo tempo fisso in quella settimana, Hayanotel Eser Halot, prendeva 10 pani, cioè dei 12 pani, 10 venivano destinati e suddivisi e distribuiti al Mishmar di quella settimana. Ma gli altri due pani rimasti venivano suddivisi a eventuali Mishmarot che dovessero rimanere, nonostante ci sia questo un giorno di ponte, quello che hanno fatto il ponte, diciamo. Vamitakev Notel Shtaim, chi rimane prende la sua parte dalle due halot rimanenti, le due, i due pani rimanenti. Ubishar Yemot Hashanah, ma per ciò che riguarda tutti gli altri momenti dell'anno in cui c'è solo un Mishmar che entra a lavorare e un Mishmar che esce finendo la sua settimana di lavoro, allora viene suddiviso nella seguente maniera. Hanichnas, colui, il Mishmar, il gruppo che entra, Notel Shesh, prende la metà, sei halot. Hayotze, e quello che esce prende Notel Shesh, prende anche lui sei halot. Le Mishmarot si cambiavano quando? Durante lo Shabbat, dopo aver fatto il Korban Musaf. Quindi dopo aver fatto il Korban Musaf, si suddivideva, si distribuiva il Lechem Apanim in maniera uguale, che quel Mishmar che entrava prendeva sei pani e il Mishmar che usciva prendeva sei pani. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dice, no, c'era una differenza, Anichnas Notel Sheva, il Mishmar che entrava prendeva la maggior parte, cioè sette delle Chalot, Vayotze Notel Chamech, e il Mishmar che usciva prendeva cinque. Perché? Perché chi entra prende più di chi esce? Perché la mattina chi ha aperto le porte? Il Mishmar uscente. Ma ormai dopo Musaf vanno via e chi chiude le porte, quindi conclude il lavoro iniziato da chi è uscito? Il Mishmar entrante. Di conseguenza prendono, tra virgolette, un premio in più, prendono 7 sui 12 e non 6 sui 12, anche se loro poi alla fine della settimana prenderanno 5, quindi sarà alla fine la stessa cosa. Però secondo Rabbi Yehuda, la persona, anche se alla fine viene fuori il complessivo lo stesso, ha più piacere a prendere di più in un certo momento, anche se poi prenderà di meno e sarà uguale, alla fine sarà sempre 6 e 6 alla fine dell'anno, no? Vabbè, ma che vantaggio ha solo sconvussolato la situazione. Esatto. Hanich Nassin, ora la Mishnah dice, come avveniva fisicamente, in quale zona del Beit HaMikdash avveniva la distribuzione delle Chalot, allora dipende. Anichnasim, coloro che era il gruppo di Kohanim che entrava, Cholkin, distribuivano, facevano la distribuzione loro, tra di loro, del pane che hanno ricevuto, Batzafon, nella zona nord della Azara, del luogo della zona dei Kohanim, dove si facevano le funzioni delle Korbanot, che è la zona del Kodshei HaKodashim, la zona più sacra, cioè la zona dove si preparavano le korbanot che si sono designate come Kodesh Kodashim, livello più alto di santità, in modo tale che tutti possano capire che questo è il gruppo entrante. Mentre Hayotzin, coloro che uscivano, facevano la loro distribuzione Badarom, al sud, quindi il lato opposto, guardando il Kodesh HaKodashim, quindi noi siamo a est, stiamo guardando a ovest, quindi a sinistra, a sud, in modo tale che sia evidente che stanno uscendo, perché uscivano da quella parte. Però la Mishnah conclude dicendo questo. C'era un unico Mishmar, tra tutte e 24 le Mishmarot, che ora vedremo come è il nome di questo Mishmar, che prendeva sempre al sud, anche quando entrava, non solo quando usciva, ma anche quando entrava. La Mishnah dice, Bilga, un Mishmar che viene chiamato Bilga, a nome di una persona, Leolam Choleket Badarom, sempre prende la distribuzione del pane nella parte sud. Sud. Perché? Perché era una punizione che era stata data a questa, a questo Mishmar. E qual era un'altra cosa? E poi vediamo il motivo. Vetabata kevua. C'erano, e il suo anello era chiuso, che non si poteva aprire. Cosa significa? Che c'erano nella zona della Shechita 24 anelli, cioè 24, diciamo così, ganci di metallo, a ganci che si possono aprire e chiudere, tipo con una cerniera, per tenere la testa del bue quando si fa la Shechita. Ok? E ogni Mishmar aveva un suo anello, si chiama Tabat. L'anello della Mishmar, del Mishmar di Bilga, era chiuso, inchiodato, non si poteva aprire. Faceva parte della punizione di questo Mishmar. Ok? No, capito, scusa. Questo Mishmar, ora vediamo perché era stato punito. Una cosa era che per, diciamo, avere meno rispetto nei confronti di questo Mishmar, prendevano, anche quando entravano nel Beit HaMikdash, prendevano la Halah a sinistra, cioè nel sud, e non come tutti quando entrano a Zafon, nella zona di Kodesh HaKodeshim a nord. Inoltre, un'altra cosa che era stato punito, che il suo anello era chiuso, fisso, non potevano usare il loro anello, dovevano fare Shechita senza usare l'anello. Ma ci rimette l'animale, Boraccio? Ci rimetteva l'animale? L'animale ci rimette. Ok. Scusate solo un secondo. Sì. La terza cosa è Vechalona, non è che non usavano l'anello, non potevano usare il loro e dovevano usare quello di un altro. Aspettando che finisse. No, perché aspettando? Era loro Mishmar. Ah, loro, adesso ho capito. È loro, non il loro anello. Okay, okay, ci sono 24 chiaro, anelli. Chiaro, ognuno c'ha uno e il loro non si poteva usare. Dovevano usare uno di... Dovevano andare da un altro Mishmar e dire ci possiamo affittare il tuo anello? È una mancanza di rispetto, no? Certo. La terza cosa, Vechalona Setuma, la sua finestra, ma per finestra non si intende una finestra, si intende un locker, come si dice? Un armadio. Sì. Come si dice quando vanno negli spogliatoi, sì, no? Sì, l'armadietto. Armadietto, perché c'erano 24 armadietti in una certa zona del Beit HaMikdash, e lì ogni Mishmar teneva i propri coltelli e altre cose che usavano quando venivano nel Beit HaMikdash, venivano tenute lì. E l'armadio di Bilga era chiuso, non si poteva usare. Ma facevano di tutto per metterli qua. Allora, Vachalona Stuma. Questo conclude la nostra Mishnah. La Gemara, nel trattato di Sukkah, spiega cosa è successo con questi qua di Bilga, e ora vediamo che è anche legato a Hanukkah. Ok? E quindi proprio Ashgaha Pratit, una previdenza divina, che concludiamo proprio la conclusione del trattato di Sukkah con la conclusione di Hanukkah, ottavo giorno di Hanukkah, Zot Hanukkah. Allora dice così, la Gemara cita una baraita, una fonte di Tanaim, che dice così, è successo un fatto con una persona che deriva dalla famiglia di Bilga, cioè di questo Mishmar qui, e a seguito di questo fatto i maestri hanno punito tutto il Mishmar. Cos'era il fatto? È successo che una delle figlie dei Kohanim di questo Mishmar, che si chiamava Miriam Bat Bilga, Bilga era come il cognome di queste famiglie del Mishmar, si è purtroppo convertita, e Miradatà si è convertita fuori dall'ebraismo e si è assimilata ai greci e si è sposata con un greco, con un ministro, non ministro, un ufficiale importante dei greci. E questo era nel periodo dei Hashmonaim. Ecco. Quando i greci, i greco-siriani, sono entrati nelle Hal e hanno profanato il Mizbeach, e hanno portato gli idoli e i maiali nel Beit HaMikdash, allora è arrivata anche lei con loro. Però cosa ha fatto? È andata verso il Mizbeach e ha iniziato a dare calci al Mizbeach. E ha detto, locos, locos. Cosa vuol dire locos in greco? Sarà come in spagnolo? No, lupo. Lupo. Lupo. Tutte le tasse aperte vengono. Lupo, lupo. Ci sarebbe stato pure fino bene. A quando. Stava bene però. Fino a quando consumi il denaro di Israel e non rimani accanto a loro nel loro momento di sofferenza. Cioè il Mizbeach consuma le korbanot che i Bene Israel finanziano. E ora è un momento di difficoltà. Dove sei? Dove sei, Akadosh Baruch Hu? Cioè si è espressa in una maniera molto irrispettosa verso l'alto. E allora, quando i Hashmonaim hanno sconfitto i greco-siriani in quella situazione ed hanno ridedicato durante Hanukkah il Bet HaMikdash e hanno riniziato a fare la Avodah come prima nel Bet HaMikdash, hanno dato una punizione a quel Mishmar in queste tre cose che abbiamo detto. Tra l'altro c'è chi aggiunge nella Gemara che questo Mishmar già da prima aveva dei problemi, e cioè che non facevano la loro avodà con esattezza, arrivavano tardi, sembrava che lo facevano come sono, che se fossero forzati. Allora se sei forzato non abbiamo bisogno dei tuoi favori. Questo però, la storia più eclatante è quella della punizione a causa di Miriam Bat Bilga, che era una, diciamo, rinnegata, no? È andata contro tutto e si è espressa in maniera di poco rispetto, di grande non rispetto nei confronti di HaKadosh Baruch Hu. Però c'è una cosa molto interessante, che una volta il Rebbe fece il siyum di questo trattato di Sukkah della Gemara e disse che c'è anche qualcosa da imparare da questa Bilga. Innanzitutto la Gemara dice: se lei ha peccato, perché devono essere tutti puniti? Allora la Gemara dice: quello che dice un bambino per strada è perché l'ha sentito dire a casa. Quando tu vedi una persona che si esprime in una certa maniera, non è che viene dal nulla. Quindi erano puniti tutto il gruppo. E questo ci insegna quanto bisogna fare attenzione a come si parla. Quello che un genitore o comunque una persona dice, per un figlio diventa normale. Allora bisogna fare attenzione alla parola. Questo è tra parentesi. Però, oltre a questo, il Rebbe faceva notare che dove si è espresso il peccato di questa donna Miriam Bat Bilga, si è espresso in un sentimento di tristezza profonda per la situazione degli ebrei. In questa maniera si è espresso. Cioè non era solo contro Maisia HaKadosh Baruch Hu. Sì, si è espresso in una maniera che è assolutamente vietato esprimersi. Però per dire cosa? Per dire, come se dicesse in altre parole, aiuta i Bene Israel. Era una preghiera, tutto sommato. Era come se fosse una preghiera. Allora, forse lei non lo intendeva proprio così, e forse, ma come è venuto fuori alla fine quello che l'ebreo c'ha sempre dentro, anche se può mai sia essere totalmente assimilato, eccetera, ma c'è sempre quel puntino della Neshama, come abbiamo studiato nel Hasidut, Nekudat Hayadut, quel puntino di scintilla, di essenza dell'anima che non può essere mai coperta. In un certo senso, quindi, quello che viene fatto a questo Mishmar in ricordo di questo atto diventa anche come un tikkun, un modo per rettificare quello che lei ha fatto o quello che altri come lei hanno fatto, perché siano anche loro inclusi, diciamo così, e non totalmente esclusi da Am Israel. Allora, con questo concludiamo il trattato di Sukkah. E Bezrat Hashem speriamo di ripassare il trattato di Sukkah e di studiare altri trattati, sempre secondo la volontà di HaKadosh Baruch Hu.